Pronto? Allora, come sono arrivato in Havana? Io mi trovavo a Firenze nel 98, ero lì all'università quando fu organizzato il primo ACT Meeting, l'ACT 98. Andai a vedere di che si trattava e rimasi sbalordito dalla vista di tutti questi miei simili tutti insieme, non ci potevo credere. Lì ho conosciuto Decoder, ho conosciuto la Shake e ECN. E ovviamente mi sono iscritto in lista ACT Meeting e ho iniziato a frequentare la chat di ECN. L'anno dopo a Milano, all'ACT Meeting, già conoscevo molta più gente e lì conobbi molti di quelli con cui poi abbiamo tirato su i primi server di autistici. Nello stesso anno trovai anche lavoro a Roma, come sistemista Unix ovviamente. Quindi sapevo dell'esistenza di Havana tramite ECN. Mi sono iscritto in lista, che era ancora quella sulla rete civica romana. E alla prima riunione sono andato nella mitica stanzetta. Era la fine del 99 e già tra le molte altre cose si parlava anche di ACT Meeting del 2000 a Roma. Ecco, così sono arrivato. Dell'ACT Meeting al Forte ho ricordi veramente sconnessi, una specie di viaggio mistico dentro i sotterranei del Forte, pieni di computer ammassati, cavi di rete, ciabatte. Non abbiamo dormito per giorni. Un'esperienza indimenticabile. E da lì poi ho continuato a frequentare le riunioni e la lista, e insomma c'è stata la censura della rete civica romana, abbiamo organizzato i vari cicli di JetNet, ho tenuto vari seminari, workshop e poi anche le varie ramificazioni con gli altri che passavano di là in quegli anni, Candida TV, la nascita di Indie Media Roma. E poi ovviamente tutti a Genova e tante tante altre cose, la rete del Forte, per molti anni abbiamo avuto il web server, il server di posta e mailing list su server interni al Forte, con le chat abbiamo amministrato macchine impossibili, computer morti di umidità, robe assurde. Oggi sono ancora iscritto in lista, ma faccio per lo più il lurker. E li guardo mentre friggono pennette USB grittate.